Resta una piaga che condiziona la vita dell'Italia. Non fa giri di parole il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera e, intervenendo all'annuale convegno via satellite del Sole 24 Ore Telefisco, esprime la sua condanna. Se l'Italia era sull'orlo del baratro, dice Befera, dipende anche dai 120 miliardi di euro di evasione annua. Punta il dito sul passato, la lotta all'evasione, dice, per anni non è stata al centro dei pensieri dell'attenzione di questo paese. E ancora una volta Befera ribadisce il suo desiderio. A me piacerebbe arrivare, come dicevo qualche tempo fa, ad una dichiarazione redditi delle persone fisiche, ovviamente, fatta da due paginette e non dalle 140 pagine che abbiamo oggi. Questo anche attraverso un disboscamento delle detrazioni. La lotta all'evasione fiscale nel 2011 ha dato grandi risultati, è servita a salvare i conti e soprattutto dopo la vicenda di Cortina, secondo Befera, si sta modificando il consenso, non più verso i furbetti ma verso chi fa pagare questi furbi. Ma il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha invitato tutti ad andare oltre, a ragionare sul fatto di destinare una quota dei proventi della lotta all'evasione per abbassare la pressione fiscale e per recuperare un rapporto positivo tra fisco e contribuenti. E infine Befera sintetizza così la formula vincente. Semplificazione e lotta all'evasione vanno a braccetto. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.